Patrizia da Padova, buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa. Buona giornata. Anche a lei, ci dica tutto. Piccolo problema. Neo pensionata artigiana. Mm-hmm. Quest'anno per la prima volta farò il 7.30. Sì. Mi sto trascinando da alcuni anni alcuni crediti d'imposta. Ah. Con il 7.30. Visto che tutto dovrebbe essere un pochino più facile, no? Sì. Appunto, perché non, la rimborsabilità era a babbo morto. Con il 7.30 da quest'anno abbiamo la pertinenza per cassa, per cui non posso più richiedere il credito d'imposta degli anni precedenti, o posso comunque rivendicarlo negli anni successivi? Benissimo, Patrizia, mi sembra una bella domanda. De Vico, come può orientarsi la nostra ascoltatrice? Allora, se negli anni precedenti l'ascoltatrice ha presentato il modello unico, può tranquillamente prendere il credito, quello che è stato indicato per intenderci nel modello, nel quadro RX del modello unico degli scorsi anni. Ma che non gli è ancora stato mai liquidato? Certo, ovviamente, ovvio, infatti stavo per dire, sempre che ovviamente non sia stato chiesto il rimborso, in tal caso bisogna comunque attendere. Se invece è stato indicato nel quadro RX tra le eccedenze che sono da computare negli anni successivi, può riportare questo credito nel rigo F3 del modello 730. In questo caso il sostituto, il soggetto che presta l'assistenza fiscale, dirà al sostituto d'imposta, ente pensionistico in questo caso, di erogarlo con la pensione subito dopo la presentazione del modello. Magari e quindi ne avrà diritto. In ogni caso l'Agenzia delle Entrate anche nel passato ha detto che i crediti, anche se non sono riportati nelle dichiarazioni dei redditi successive, non si perdono mai. Sì, speriamo, insomma, perché l'ascoltatrice ha detto mi sto trascinando, sicuramente non si perdono, ma certo che ce li fanno veramente sudare. Ecco, allora, il 730 è utile, uno strumento utile proprio per sì, questo, per vero. Recuperare immediatamente i crediti, anche quelli degli anni precedenti.